Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, la squadra del giorno è probabilmente il Napoli insieme al Livorno, ma la squadra della settimana è certamente il Milan, alla terza rimonta consecutiva in 8 giorni. Sono interessanti molti dati statistici di giornata, per esempio il Bari, un Bari migliore di questo c'era stato soltanto, leggo dal Corriere dello Sport, che è sempre molto preciso il lunedì su queste curiosità legate ai numeri, aveva fatto meglio di questo campionato soltanto nel 46-47 e evidentemente la suggestione di quegli anni, di quell'anno in particolare il 47, ritorna, se è vero che il Livorno non vinceva sul campo della Roma proprio dal 23 febbraio del 47. Roma e Lazio a secco, tutte e due, e tra l'altro con discreta dose di ignominia per entrambe. L'ultima volta era successo 6 mesi fa, che restassero tutte e due all'asciutto. Dopo 8 mesi non c'è stato nessun pareggio in campionato. La classifica di rendimento paragonata a quella dello scorso anno vede la Sampdoria addirittura a più 13 rispetto alla stagione scorsa, mentre chiude l'Udinese a meno 9, seguita dal Catania a meno 8. I protagonisti principali, vi dicevo, del Milan, squadra certamente della settimana, comincerei dall'intervento finale del dopopartita di ieri sera dell'allenatore Leonardo. Abbiamo preso un gol dopo 6 minuti, questo è un errore. È l'unico momento che eravamo un po' schierati, forse per la pressione iniziale, abbiamo concesso sicuramente un cross e è venuto fuori il gol. Credo che il Chievo nel secondo tempo ha fatto molta fatica a ripartire, perché eravamo sempre alla metà campo loro, per quello è stato il problema. Non ho visto un primo tempo non buono, ho visto sicuramente un secondo con una spinta più importante. Io credo che questa squadra sta trovando degli stimoli incredibili, questa squadra comincia ad avere un grande piacere di giocare, forse trovando il modo migliore per ogni giocatore, questo piacere aumenta, per quello credo che la cosa che viviamo oggi di più è questo entusiasmo. Entusiasmo che, come sentite bene dal tono di voce, Leonardo vive in prima persona in panchina, perché puntualmente finisce sgolato i 90 minuti più recupero. Poi nelle prime giornate succedeva anche peggio, nel senso che non era proprio in grado di presentarsi ai microfoni, adesso sia pure con voce roca ma con il suo italiano assolutamente impeccabile, è in grado perlomeno di parlare. Facciamolo continuare a parlare e sentiamo che cosa ci racconta dei due protagonisti assoluti della serata. Nesta Savasa Dir, ma certamente anche il portiere Dida. La parata di Dida è straordinaria, io credo che per quello l'esultanza di tutti noi, perché è stato già con quello che è successo a lui a Madrid. Dida ha un pregio che pochi giocatori hanno, che è fare un errore così importante ed essere in partita e avere la personalità di rimanerci proprio in questo modo e oggi ripetersi. Io credo che la sua parata è un gol sull'1-1. E dopo riusciamo a fare il 2-1 e vince una partita con 2 gol di Nesta, che già non so cosa più dirgli, perché Ale è diventato un qualcosa molto più, diciamo, di un giocatore bravo. Io credo che lui oggi vive con un'aureola diversa, con una cosa positiva, la trasmette e dopo, voglio dire, sta giocando in un modo che non ho parole. Secondo lei, domanda Diego da Verona, che cosa è dovuto il calo nel secondo tempo del Chievo? Ma, insomma, secondo me il calo del Chievo è cominciato già nel primo tempo. Io credo che il Chievo abbia segnato troppo presto e abbia preteso di gestire una partita contro un avversario superiore, nettamente superiore tecnicamente, cosa che non è abituato a fare. Che non sia stato un calo lo dimostra il fatto che quando è stato raggiunto e prima di subire il gol della sconfitta ha creato 2 grandi occasioni, perché ha ricominciato a credere di poter far gol. Ci aveva mentalmente rinunciato, mi pare, in tutta la fase di gestione della partita, che non è un copione che gli appartiene. Tutto questo senza dimenticare i grandi meriti del Milan, di tutti direi, ma quelli di Nesta e di Dida in particolare li ha già sottolineati l'allenatore. Mazzarri mercoledì contro il Milan sarà in panchina. Ringrazio gli organi che hanno ufficializzato la sua non squalifica. Lo ha detto poco fa il presidente del Napoli De Laurentiis, che anticipa evidentemente il comunicato del giudice sportivo che non è ancora stato battuto dall'ANSA. Da notare che la presenza in panchina di Mazzarri, che era in forse per l'espulsione di ieri a Firenze, era stata, nel caso fosse arrivata una squalifica, De Laurentiis ieri pomeriggio aveva tuonato che appunto, nel caso di Mazzarri squalificato, si sarebbe trattato di un calcio truccato. Quindi, poiché Mazzarri non è stato squalificato, siamo sereni. De Laurentiis ci certifica che il calcio non è truccato. Sentiamo proprio Mazzarri. C'è stato questa spinta forte quando la palla era già fuori dal campo, siccome eravamo stati ammoniti in diversi giocatori, secondo me anche in modo un pochino eccessivo, e ho detto anche questo è da ammonizione, sono andato a dirlo al guardalinee, probabilmente all'arbitro che quarto uomo era dall'altra parte con Prandelli, ha visto me, così ho insistito un po' a dire anche questo è da ammonizione, c'era Vargas davanti, ma è una cosa normale in campo e non penso questa volta davvero di aver meritato, anche perché prima non avevo fatto assolutamente contestazioni nei confronti della terna arbitrale. Al di là che i punti lo sappiamo, fanno sempre comodo, però oggi volevo vedere il comportamento della squadra in un campo così importante e difficile, e oggi siamo stati in partita veramente da squadra vera, era questo che volevo vedere. Oltretutto avevamo anche diverse assenze in difesa e chi ha giocato ha fatto molto, molto, ma molto bene, questo è importante, è chiaro, poi è venuto anche il risultato, è ancora meglio. Vi ricordo che è l'800240024 il numero per i vostri interventi in diretta a commento del campionato. Ci sono due notizie che riguardano Juventus e Inter e non sono notizie piacevoli. La prima riguarda la Juve ed è già ufficiale. Iaquinta sarà operato domattina al menisco sinistro. Il giocatore bianconero, leggo in un comunicato, si era infortunato nell'allenamento di sabato. Per questo ha saltato la trasferta di Siena. Stamane c'è stato un esame approfondito in ospedale a Torino e sarà necessario questo intervento al menisco esterno del ginocchio sinistro. Non c'è ancora l'ufficialità, ma non sono buone le condizioni di Snyder, che è uscito dall'altra parte sabato nel corso della partita con il Catania. Snyder spera di essersi fermato in tempo, così ha dichiarato ieri alla Gazzetta dello Sport, ma ha indubbiamente sentito una fitta ad un muscolo. Gli esami strumentali in queste ore, nel caso ci fosse un problema, il problema sarebbe grave, perché gli toccherebbe saltare, al di là del campionato, gli toccherebbe certamente saltare anche la trasferta di Kiev dalla prossima settimana, decisiva a questo punto per il cammino in Coppa. Le partite, gli arbitri di mercoledì sera, perché si ricomincia, tra l'altro si ricomincia con un calendario di primo ordine: Bologna-Siena-Romeo, Catania-Chievo-Valeri, Genoa-Fiorentina-Saccani, Inter-Palermo, il posticipo di giovedì sera con Tagliavento a dirigerlo, Juventus-Sampdoria-Rocchi, Lazio-Cagliari-Brighi, Livorno-Atalanta-Bergonzi, Napoli-Milan-Rizzoli, Parma-Bari-Baracani, un debuttante credo fiorentino, Udinese-Roma D'Amato. Sono interista, scrive Calogero, ma è stata una gioia l'abbraccio ad Ida. Max da Pavia scrive: altro che Ambrosini e Gattuso, il capitano vero del Milan è Nesta. Andrei a sentire un commento, il commento di Ferrara dopo la partita che la Juventus ha vinto a Siena come doveva, ma che insomma qualche altra perplessità sul piano della qualità indubbiamente l'ha sollevata. Ferrara. Io oggi il bicchiere lo vedo pieno, sinceramente. Poi è chiaro che possiamo di sicuro migliorare, ma per noi era fondamentale la vittoria, che credo sia stata una vittoria meritata, magari non avendo tante occasioni, ma anche non rischiando mai, cosa che invece in passato c'era capitato, e praticamente facendo sempre la gara. Quindi sono molto soddisfatto chiaramente del risultato e sono molto soddisfatto comunque anche della prestazione. E questo è il commento, l'ha detto Ferrara, avete un bicchiere pieno, nemmeno mezzo pieno, perché pieno è stato il risultato, poi con poco altro, anche se è vero che di rischi, a parte uno iniziale in cui è stato molto bravo Buffon come sempre, di rischi particolari da ieri la Juventus non ne ha corsi. È in corso un seminario per giornalisti sportivi organizzato da Lussi al Centro Tecnico Federale di Coverciano a Firenze. È stata poi tra gli ospiti c'è Fabio Capello, gli è stata posta una domanda sulle differenze ambientali tra calcio italiano e calcio inglese, visto che oggi lui vive a Londra ed è il CT dell'Inghilterra. La risposta di Capello come sempre è stata secca: qui in Italia comandano gli ultras e fanno quello che vogliono, mi dispiace, eppure sarebbe sufficiente avere il coraggio di applicare la legge. Questa la risposta di Capello a questa domanda. Da Roma ha chiamato Carmine, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, dottori, e complimenti ovviamente per la trasmissione. Volevo chiedere una sua opinione, un suo giudizio, diciamo in merito a quello che da alcuni anni io cerco di dare, diciamo, una risposta sull'utilizzo degli allenatori, nel senso sulla importanza dei risultati, su quanto possano incidere gli allenatori e su quanto può incidere la squadra. Mi spiego meglio, nel senso, vediamo la stessa edizione di Mazzarri con Donatoni, o meglio Donatoni con Mazzarri, e in effetti il Napoli ha nell'ultima due partite ha fatto due vittorie. Siccome io, diciamo, non attribuisco un'alta valenza agli allenatori, però sembrano che questi risultati mi stiano smentendo. Volevo sapere una sua opinione. Carmine, la mia opinione è che non ho un'opinione, nel senso che basta prendere dei dati precisi e capire che non c'è una regola. Esempio recentissimo, e direi perfetto proprio per rispondere, a quello di ieri e di ieri l'altro. Ci sono due allenatori nuovi in Serie A, hanno debuttato sabato e domenica. Colomba, neo allenatore del Bologna, dopo poco più di mezz'ora a Marassi era sotto di 4 gol ed eravamo vicini al getto della spugna, per usare un termine pugilistico antico. Il giorno dopo Cosmi, con una squadra ancora più disastrata, cioè il Livorno, stra ultima in classifica, è andato all'Olimpico e ha vinto contro la Roma. È evidente, no, che tutte e due ereditano una squadra nuova, ce l'hanno in mano per 4-5 giorni e gli esiti sono opposti. Ma sono opposti anche perché opposto è il rendimento di una Roma penosa, come quella che ieri ha consentito al Livorno di vincere sul suo campo, e invece la Sampdoria, per esempio, che sta girando a mille. Dopodiché la storia è ricca di episodi di entrambi i segni, ma Donadoni, per esempio, certamente non ha mai dato la convinzione al Napoli che Mazzarri ha dato in queste due giornate, ma quando tre anni fa, quando Spinelli, colto da improvviso benessere evidentemente, decise che il sesto posto o settimo di allora del Livorno a febbraio non gli bastava e licenziò Donadoni, che era artefice di quel sesto o settimo posto provvisorio al Livorno, e ingaggiò Mazzone, il Livorno si salvò per un pelo, perché con Mazzone andrò incontro a un disastro assoluto. Potremmo continuare, perché il calcio è pieno di riprove in un senso o nell'altro. Conte sta facendo certamente un eccellente lavoro a Bergamo in questo momento, così come Mazzarri a Napoli, ma poi le controprove devono sempre ancora arrivare. E comunque, ripeto, la storia è piena di allenatori subentrati che non hanno cavato un ragno dal buco o hanno peggiorato il rendimento, e di altri invece che hanno cambiato completamente la storia. Andrei a Bologna da Giancarlo. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Spero di non ripetermi perché non ho ascoltato la radio in questi ultimi minuti. Ad ogni modo, volevo chiedere, la buona situazione del Napoli di queste ultime giornate, buoni risultati, secondo lei sono soltanto merito di Mazzarri oppure c'è qualche cosa ancora di Donadoni? Sì, aveva staccato la radio evidentemente negli ultimi minuti. Chi lo può dire, Giancarlo? Secondo me non lo sanno nemmeno loro, non lo sanno nemmeno i diretti interessati. Ora, negare che con Mazzarri ci sia stata una svolta sarebbe negare la realtà. Dire che probabilmente quando una squadra comunque riesce a fare un salto di qualità di quel genere sotto forma di risultati, significa, a parer mio perlomeno, significa che il lavoro precedente non era certamente stato fatto male, perché sennò sarebbero mancate le basi per una svolta di quel genere. Questo, ripeto, in linea di massima, ma se andiamo a frugare negli archivi troviamo prove lampanti a vantaggio sia dell'una che dell'altra tesi. Torniamo a Roma, c'è un altro ascoltatore a nome Andrea. Pronto? Sì, dica. Buongiorno Garanzini, comunque complimenti per la pacatezza del linguaggio. Sempre. Io diciamo per parlare del Napoli, perché volevo sapere se per lei, insomma, l'inserimento di Maggio sia stato veramente la chiave di volta della rinascita, insieme a Mazzarri chiaramente, Oh, sai che sono motivati di più i giocatori in toto, insomma. Andrea, non possiamo andare avanti così tutto il giorno rispondendo alla stessa domanda. Facciamo così, gliela giro in un'altra maniera. Dennis era un giocatore che mi pare fosse molto trascurato da Donadoni, se non sbaglio, perlomeno nell'ultimo periodo, ed era un giocatore che ha perso fiducia. Ieri credo sia subentrato a un certo punto, ma certamente Dennis ha messo alla fine per maggio una palla strepitosa, e che mi pare sia stata anche poco accentata dai commentatori, perché è ovvio che per i commentatori gli strilli vanno riservati a Ronaldinho. Ronaldinho, a proposito, ieri certamente è un caso, ma essendo uscito dal campo al 79esimo, dall'81 in avanti il Milan ha cominciato la rimonta. Gli strilli vanno riservati agli uomini copertina, Dennis evidentemente non lo è, e quindi nessuno ha sottolineato il fatto che il suo assist per l'inserimento di maggio avrebbero detto, se fosse stato un altro, che aveva il contagiri, che questa palla era geniale, che l'assist valeva il biglietto, eccetera. L'ha fatto Dennis e tutto questo è passato in cavalleria. Luca, chiamato da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno, piccola premessa, è stata una bel fine settimana, perché casualmente c'è stato Padova-Triestina che avrebbe sleticato Paro Rocco. Mm-hmm. Poi ieri Liverpool e Manchester, che è stato un qualcosa di un affresco del miglior Raffaello, perché vedere il tifo, l'educazione in campo e il tifo stracorretto dei tifosi del Liverpool è stata una cosa da brividi, veramente. Dico questo perché oggi signor Prandelli, meritatamente e meglio di lui nessun altro, riceve un grande premio, e io da tifoso interista sono molto orgoglioso che riceve il premio dedicato a Giacinto Cafacchetti, di una persona che soprattutto è un uomo e poi un bravissimo allenatore come Prandelli, che pagherei io perché lo veda sulla panchina dell'Inter. Grazie, grazie Luca, parole molto belle sul conto di questo autentico galantuomo che è Prandelli. Tra l'altro le agenzie ricordano appunto che ha appena ricevuto a Milano il premio Facchetti, e si è detto, a domanda ovviamente, si è detto perfettamente d'accordo con Capello in quell'affermazione che ho riferito prima. Ha precisato: in questi anni fortunatamente a Firenze è stato straordinario il rapporto con la tifoseria, la proprietà aveva reso noto da subito, la proprietà della fiorentina, che certi comportamenti non sarebbero stati accettati. Vi ricordo che Capello ha detto stamane: qui in Italia comandano gli ultras e fanno quello che vogliono, mi dispiace, sarebbe sufficiente avere il coraggio di applicare la legge. E cioè ha detto quello che tutti pensiamo, in realtà l'ha detto con la sua solita chiarezza e durezza, anche se vogliamo. Sono un tifosissimo del Palermo, scrive Dario Pistoia da Palermo, eppure credo che il quarto posto oggi in classifica per noi sia più che un nostro merito, un demerito del campionato medio davvero scarso. Io penso che lei abbia abbastanza ragione, Dario, e penso anche che il Palermo sia stato molto fortunato in queste ultime giornate, nel senso che ieri ha certamente creato molto più gioco l'Udinese, l'Udinese che ha perso su autorete a 3 minuti dalla fine, l'Udinese che avrebbe qualche serio lamento da fare, e qualcuno l'ha anche fatto per la direzione arbitrale in precedenza. Mi pare che anche nella precedente trasferta il Palermo non avesse poi strameritato quella vittoria esterna. Ricordo ancora un Palermo-Napoli alla prima giornata, anche lì dall'esito rispetto al gioco abbastanza contraddittorio. Quindi il grande merito del Palermo evidentemente è di saper superare i momenti di difficoltà e poi di colpire alla fine, ma probabilmente quei 15 punti sono un po' approssimati per eccesso al momento. Sono due notiziole nella pagina dell'Inter di stamane, della Gazzetta dello Sport, a piè pagina, che anche per il fatto di essere state pubblicate una accanto all'altra sono abbastanza curiose. Il primo titolo dice: la rizzolatura di San Siro piace a Mu e ai giocatori. Sabato, in effetti, almeno da vedere, il campo di San Siro faceva una gran bella figura. La rizzollatura c'è stata, è stata curata al responsabile dello stadio, all'agronomo della Lega, e ha soddisfatto giustamente chi, innanzitutto gli attori, ma poi anche gli spettatori, sia quelli presenti in persona che quelli televisivi. Di fianco c'è un Moratti ripiana e mette 70 milioni oggi assemblea. Allora, tanto mi diverte l'idea che un titolino sia la rizzollatura e quest'altro sia invece il verbo sia ripiana. Moratti rizzolla anche il bilancio dell'Inter, perché 70 milioni che stasera verserà, perché l'aumento di capitale previsto per coprire le perdite è tale. Insomma, 70 milioni mi sembra una discreta rizzollatura di bilancio. Tocca a Frederick, che ha chiamato da Treviso. Buongiorno. Dottore, buongiorno. Dica. La chiamavo perché gli avvenimenti successi ieri pomeriggio a Marsiglia vengono a confermare quanto detto dal signor Cappello oggi stesso, una detta appena prima, dove a Marsiglia magari il pubblico sia irruente, sia scherzioso, non è mai successo niente allo stadio, io l'ho frequentato per anni. Arriva l'unica tifoseria di Francia che è consentito di fare di tutto, che è quella di Parigi, è successo avvenimenti veramente incresciosi ieri pomeriggio intorno alla stazione di Marsiglia, non so se hai visto le immagini in... Sì, ho qua sotto però anche le notizie dell'agenzia, sono tutti tifosi marsigliesi quelli arrestati, eh? Marsiglia li hanno rimandati via tutti subito in treno per evitare che quelli di Parigi, cioè i parigini sono stati subito rimpatriati, no? Col treno, per evitare che continuasse ancora. Ecco, ma i marsigliesi così tranquilli, che hanno tirato bottiglie razzi contro gli altri tifosi e poi scontri lacrimogeni eccetera, è stato intanto è un classico in Francia, purtroppo è l'unico classico, per la verità, perché l'unica rivalità feroce davvero che c'è in Francia è quella tra Marsiglia e Paris Saint-Germain, e l'unica tifoseria veramente pericolosa è quella del Paris Saint-Germain. Però mi sembra che ieri i marsigliesi si sia andati da fare, insomma, per mettersi all'altezza dei rivali. Tutta la vicenda è stata comunque mal gestita, perché questa esplosione di follia è nata per il rinvio troppo tardivo, secondo perlomeno alcuni dirigenti e soprattutto quelli del Marsiglia, rinvio tardivo per questi tre casi di influenza suina da cui è stato colpito il Paris Saint-Germain. Il regolamento varato dalla Lega francese dice per l'appunto che in caso di contemporaneità di tre giocatori colpiti da questo accidente di influenza, la squadra ha il diritto di chiedere il rinvio. Fino a poche ore prima della partita i colpiti erano due, quando un test ha certificato che se n'era aggiunto un terzo, hanno chiesto il rinvio e l'hanno ottenuto, ma è arrivato, insomma, un pochino in ritardo e le teste calde ne hanno purtroppo approfittato. Grazie Frederick, andiamo a risentire la voce di Cosmi, anche perché era un bel po' che non la si sentiva, e tantomeno in Serie A. Inesperata, nel senso che pensavo, volevo tornare, insomma c'era un desiderio enorme, però tutto avrei pensato che di realizzare quello che sembrava non impossibile, perché nel calcio l'impossibile mille volte si è dimostrato che non esiste, però di particolarmente difficile. Poi la partita è diventata ancora di più per l'infortunio di Perticone, l'espulsione, quindi le premesse non erano felici, a parte il gol di Tavano. Però ecco, diciamo così, sono stato premiato anche da un pizzico di fortuna che magari Ruotolo, i miei predecessori, non hanno avuto, bisogna riconoscerlo, perché se no si parla sempre di quello che si fa di buono e si dimentica che invece ci sono stati dei professionisti che hanno lavorato, e magari per tante cose, non solo per, diciamo, molto per sfortuna, non si ottengono i risultati, è giusto sempre ricordarlo. Ben detto, vecchio comandante Serse. Insomma, non era stato difficile poi prevederlo. È arrivata la conferma da Piano. Snyder accusa effettivamente uno stiramento. Gli esami hanno evidenziato stamani, gli esami da parte del professor Combi, hanno evidenziato uno stiramento al bicipite femorale della gamba destra. Insomma, l'olandese ha già cominciato le terapie. Combi ha precisato che si tratta di uno stiramento, cioè di una lesione muscolare, e alla domanda se sarà disponibile per la gara di Kiev ha risposto: faremo come sempre il possibile, ma uno stiramento è uno stiramento. Quindi, tradotto in italiano, la risposta è no. Combi ha poi aggiunto anche: Thiago Motta e Milito si allenano col gruppo da 3 giorni, vanno meglio, dobbiamo però valutarli giorno per giorno, difficilmente anche loro saranno disponibili, Milito no, difficilmente anche Motta sarà disponibile per il posticipo di giovedì sera con il Palermo. Ha chiamato Daniele dalla provincia di Ravenna, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, dica. Si disturbo. Senta, io sono sportivo, mi piace guardare le belle partite, invece guardare il calcio un po' 360 gradi. Credo che siano ingiuste le critiche a Donadoni, perché va, ok che Mazzarri ha fatto 6 punti, però se andiamo a analizzare la partita col Bologna e la partita di ieri sera, non penso che ci sia la mano di Mazzarri. Il Napoli non mi sembra cambiato per niente. Beh, quello di ieri sì, col Bologna assolutamente no, quello di ieri sì. Ieri è andato su un campo difficile e ha tenuto il pallino, non dico ininterrottamente il pallino in mano, ma insomma ha giocato da protagonista sul campo della Fiorentina, non è semplicissimo. Pronto? Sì, certo, dica. Perciò mi sembra una squadra alterna più che l'allenatore. Mi sembra che Mazzarri, quando è alla fine, non so che punto può risolvere i problemi del Napoli. Grazie e buona giornata. Grazie a lei Daniele, ma difatti del futuro non v'è certezza, ma insomma qualche segnale di risveglio c'è stato, questo mi sembra un dato oggettivo, poi trattarlo invece come la svolta miracolistica, come fa per esempio il suo presidente, potrebbe creare, certamente genera entusiasmo adesso, ma potrebbe poi creare attese eccessive in prospettiva. Come mai, scrive Nicola Magnezzi, cioè domanda Nicola Magnezzi per iscritto, squadre come Samp, Genoa, Bari, Chievo giocano a calcio e la mia Juventus no? È dai tempi di Lippi che non vedo la Juve giocare almeno discretamente. Beh, insomma, qualche partitina discreta l'ha fatta anche dopo Lippi, a parer mio. Non è un buon momento questo, certamente non è un buon momento. La Juventus di quest'anno aveva incantato tutti all'Olimpico contro la Roma. Non solo la Juventus, direi più ancora Diego della Juventus, ma insomma tutte e due, sia il singolo che la squadra, e poi invece andando avanti si è scoperto che c'erano indubbiamente dei meriti, ma c'erano soprattutto dei demeriti da parte della Roma, direi, no? E mi pare che anche la cura Ranieri, a proposito di allenatori cambiati, stia funzionando molto, ma molto relativamente. Tocca a Giuseppe, ha chiamato da Palermo, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, volevo un suo parere in merito ad alcuni innesti eventuali in nazionale, vista la grande penuria di giocatori. Fra un anno c'è il mondiale e io ho pensato alla coppia d'attacco Pazzini-Cassano, mettendo Totti alla loro spalla, inserendo D'Agostino a centrocampo e Nesta in difesa. Che ne pensa? Giuseppe, ma perché si prende questi mal di pancia 8 mesi prima, lei, per curiosità? Perché insomma, certe cose vanno programmate anche molto tempo prima. Per portarsi avanti, insomma. Esatto. Lei ha il coraggio di proporre Totti? Cioè, io ho trovato questa allusione a Totti la settimana scorsa, a parte che non gli ha neanche portato molto buono, povero, ma trovo che questo sia veramente un discorso assurdo. Cioè Totti sta facendo una fatica dannata, povero, ripeto, a giocare qualche partita in più con la Roma, no? L'ultimo infortunio è, da un certo punto di vista, è raggelante, perché per una volta che lascia andare la gamba su quel tiro splendido da fuori area del suo ultimo gol, si infortuna, cioè senza contrasto, senza cosa, si infortuna in qualcosa, cioè gli molla un po' il ginocchio, o forse gli cede del tutto, speriamo ancora di no. In queste condizioni, secondo lei è pensabile una programmazione di una convocazione di Totti da qui a 7-8 mesi? Io mi meraviglio che ci sia cascato Lippi in un discorso del genere. Vabbè che Lippi c'è cascato, perché parlando di Totti ha potuto non nominare Cassano, e che mi sembra il suo unico vero obiettivo, no? in questa fase non va nominato. C'è riuscito anche nel dopo Parma. Cristiano Ronaldo dice che vuol giocare contro il Milan. L'infortunio, insomma la prognosi in un primo tempo era per il 10 novembre, l'ipotesi di rientro, e invece il portoghese ha detto stamane che sta cercando di affrettare i tempi, pur senza voler rischiare, ma sta cercando di affrettare i tempi per il 3, cioè per il giorno del ritorno a San Siro, perché la sconfitta del Real in Coppa è stata molto pesante e va compensata da un successo a Milano, così dice Cristiano Ronaldo. Il ripasso di storia, come sempre, Nicola Filippone. Sembra ieri. 26 ottobre 1947, settima giornata di campionato. L'Inter travolge per 6-0 la Lucchese. Protagonista assoluto dell'incontro è un giovane attaccante toscano, da poco arrivato a Milano. Benito Lorenzi, detto Veleno, spiana la strada al successo interista realizzando 4 gol nella prima mezz'ora di gioco. In maglia nerazzurra, Lorenzi giocherà 11 stagioni, segnando 138 reti in 305 gare di campionato. Lorenzi, detto Veleno, scomparso un paio di stagioni fa. Ognuno in un paese democratico, mi segnala, e lo ringrazio di questo, Andrea D'Ancona, è libero di spendere i suoi soldi come vuole. In un paese tarocco invece i bilanci si ripianano con campionati taroccati e con movimenti di mercato gestiti da Gea, eccetera. Nessuno rimpiange quei tempi, caro Andrea D'Ancona, ma se permette, insisto, una rizzollatura di bilancio di 70 milioni non è una cosa da tutti i giorni, quindi un minimo di sottolineatura può anche meritarla. Sottolineerei anche il fatto che ieri mi sembra che Gasperini abbia un pochino perso l'indirizzo di casa a Cagliari. Ora, certamente qualche episodio non è girato dalla parte, non dico giusta, ma dalla parte genovana ieri, ma insomma, diciamo, prima sentiamo e poi sentiamo cosa ha detto, ripassiamo e poi magari vediamo di tirar fuori una piccola valutazione. Al di là degli episodi, credo che veramente Genova oggi abbia subito delle ingiustizie troppo pesanti, ma probabilmente non è sempre solo riferito a un unico episodio, no? È tutto. Se nel primo tempo c'è un fallo clamoroso di Cossu su Biava che non è venuto fuori il gol per miracolo, una serie di cose, ma poi un condizionamento continuo nei confronti di quest'arbitro che sicuramente purtroppo ha finito per perdere un po' la tramontana. Ma ad esempio nell'intervallo io continuo a vedere capannelli di giocatori intorno all'arbitro, di dirigenti intorno all'arbitro. Io non so nel primo tempo quali episodi così clamorosi sono successi, faccio fatica da consentire proprio sempre queste continue pressioni intorno a un arbitro. Cioè, il tono è molto pacato, a differenza dei contenuti. I contenuti però mi sembrano un pochino inquietanti, anche perché stento a credere che il destinatario, insomma, che il Cagliari possa essere destinatario di chissà quali benefici arbitrali. Antonio da Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io volevo dire qualcosa in merito a quello che ha detto Capello sulle ANS, almeno ho letto. Sì. Che in Italia non ci sono regole per il calcio, agli stadi, alle... Cioè, beh, io rimango, perché quando loro giocano, cioè allenano in Italia, loro, cioè, non dicono mai niente, cioè, io degli arbitri non parlo, ma poi quando vanno fuori magari si ricordano dell'Italia, che in Italia non funziona niente. Volevo una risposta da lei, che ne capisce più di me. Entro certi limiti, Antonio, ma proprio certi limiti. Sì, non c'è dubbio che lei abbia accentato un vezzo particolare, insomma, per cui però è anche vero che non parlava d'altro Capello se non di ultra, su questo aspetto, sul fatto che in Italia il calcio sia discretamente invivibile, si era già espresso anche quando allenava in Italia. Più di una volta aveva fatto un parallelo non tanto tra Italia e Inghilterra, perché allora gli mancava quel tipo di esperienza, ma tra le esperienze spagnole, tra la prima esperienza spagnola di metà anni 90 e quelle e la realtà italiana, e mi pare che anche allora fosse stato molto coerente con quello che ha detto oggi. Le sue dichiarazioni non hanno entusiasmato nemmeno Petrucci, presidente del CONI, che ha detto: è troppo facile parlare dall'alto a proposito di Capello, sono dichiarazioni che non mi entusiasmano e lasciano il tempo che trovano. In compenso, se posso, nel mio piccolissimo, non riesco a capire cosa intenda Petrucci per dire: è troppo facile parlare dall'alto. Capello parlerà pure dall'alto, ma se non è alto il presidente del CONI in Italia, insomma, piccolissimo non è, e quindi è strana perlomeno questa formula retorica che ha che ha usato. Mauro ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, Cosanzini. È un paio di occasioni che la sento parlare in modo negativo di Ronaldinho. Io non sono un milanista, tranquillo, però devo dire che alla fine il contributo di questo calciatore mi piace molto e mi dà entusiasmo. Non sarei proprio così negativo nei giudizi come lei, mi sembra che un periodo insiste su questo. Vorrei che io insisto da quanto più tranquillo, anche lei come me. Tranquillo, no, non sarà una minaccia, spero. No, no, non è minaccia, ecco, no, meno male. No, dico, io sono tranquillo, nel senso come milanista. Ecco, ma sarà. Sarei tranquillo davanti a Ronaldinho. E allora ha capito qual è la differenza, Mauro, no? Che essendo lei milanista, lei è un fideista, essendo io un non milanista e un non altro, sinceramente ritengo, non da qualche tempo, come ha detto lei, ma dal primo giorno che Ronaldinho è arrivato in Italia, che. Che non fosse il caso. Ora, diciamo che su una trentina di occasioni, un paio o tre di volte mi ha smentito, le altre 27-28 mi pare mi abbia dato ragione. L'ultima certamente è quella di ieri sera, in cui, ripeto, tolto quel freno a mano sulla sinistra che era rappresentato da Ronaldinho, che chiudeva una corsia, uno sbocco offensivo, da quella parte è arrivato il, per esempio, il cross di Pirlo, e sono arrivate altre iniziative felici per la rimonta del Milan. Questa perlomeno è un'impressione. Poi certamente, come tutte le impressioni, può anche essere sbagliata. In linea era Mauro, vabbè, ho perso un po' il conto. No, devo andare alla 4. Angelo ha chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Vorrei dire un paio di cosette per il nostro gestore, il signor Claudio Lodito. Io vorrei sapere qual è il giornalista coraggioso che prima o poi gli farà una domanda semplice, diretta, e gli dice che campagna acquisti ha fatto. Perché lui l'altro anno, 18 sconfitte, 10° posto in campionato, aveva promesso 3 acquisti all'infuori dei dissidenti. I dissidenti non ci sono più, i 3 acquisti non li ha fatti. Non c'è nessuno che gli dice direttamente cosa deve fare. Noi ci siamo stufati. E anche Ballardini, che fa l'aziendalista, adesso ha iniziato a parlare un po' più diretto. Noi ci ritroviamo a gennaio sempre a correre i ripari, il campionato è compromesso e tutto quanto. Non so, qualcuno, non c'ha mai coraggio nessuno, né qualcuno di Sky, né Mediaset, né la Rai. Ci siamo stufati, ci ha stufato lo dito. Giustizia per Gabriele, grazie. Grazie a lei, Angelo. Io quando sento queste telefonate, sinceramente, per fortuna mi consono alle mail. Ne ho una deliziosa, pensavo che prima o poi qualcuno avrebbe parlato della rinascita del Milan, ne avrebbe magari approfondito entro certi temi, certi aspetti, invece non è successo se non per Ronaldinho, e allora questa chicca per Ronaldinho sinceramente non la sprecavo volentieri. Questa è una poesia che Oliviero Tacchella, un milanista storico di Pavia, ha mandato perché questi versi di un poeta genovese che si chiama Edoardo Firpo gli ricordano il momento attuale del Milan. Ora non so se ne sono all'altezza, perché è un poeta genovese e quindi ci provo, ma è talmente bella, sono talmente belli questi 4 versi che sono come o fiore in togotto che mentre o meue chanin pe ogni so che ritorna o se repigia un pitin. E in italiano vuol dire sono come un fiore nel bicchiere che mentre muore piano piano ad ogni sole che ritorna si riprende un pochino. Trovo semplicemente sensazione. Intanto stupendi questi versi, e poi da milanista romantico come è questo ascoltatore, che spesso e volentieri corrisponde con me, ho trovato questo accostamento veramente sopraffino. Rino a chiudere dalla provincia di Mantova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Madonna, io volevo fare due parole su Mourinho. Mourinho, io le dico che mi sono ridotto al punto che quando lo sento parlare la televisione, o che tolgo l'audio oppure non so, vado da un'altra parte, perché ormai mi ha stancato in un modo incredibile quella persona. Spero che non ci sia ancora quel 99,9% quest'anno per spillare ancora 1 milione di euro per lo stipendio e sì, magari no, che lo mandino anche via. Grazie anche. Rino, guardi, comunque quella di azzerare l'audio è una buonissima tattica salvifica che serve non soltanto per Mourinho, io la applico molto ma molto spesso, per non dire sempre. Grazie a tutti gli intervenuti, grazie a Roberto Scaltritti in regia, oggi in redazione con Flavio Suarri c'era debuttava Franco Piantanida, Giornale Radio, buon pomeriggio a tutti. A tempo di sport.